Ma in buona sostanza l'iniziativa che è di carattere popolare, di iniziativa popolare, cioè c'è stato il lavoro dei comitati per l'acqua pubblica in Emilia Romagna, che nelle prossime mesi raccoglieranno le adesioni di comuni per almeno 50.000 abitanti, depositeranno quindi un testo di iniziativa popolare al quale si accompagnerà un testo di legge dei consiglieri che oggi hanno presentato, quindi insieme a me i colleghi Torri e Prodi della sinistra e Bertani del Movimento 5 Stelle, che ha lo scopo appunto di ridisegnare l'assetto della gestione del servizio idrico integrato e in parte anche del ciclo dei rifiuti in Emilia Romagna, dando risposta a quella domanda ancora inevasa dal 2011 di migliaia e migliaia di cittadini emiliano-romagnoli che in occasione del referendum sull'acqua pubblica hanno dato un'indicazione molto chiara, e cioè la gestione, hanno detto alle istituzioni politiche di tornare a occuparsi della gestione in prima persona direttamente della gestione pubblica, quindi dei servizi idrico e di rifiuti, e noi pensiamo che a quella risposta, a quella domanda vada data una risposta, quindi l'iniziativa di legge ha questa valenza. Ovviamente lo facciamo con le forze politiche in modo trasversale, quindi sinistra, il Movimento 5 Stelle, che attualmente sia in regione che a livello nazionale ovviamente sono su fronti contrapposti, ma che hanno una sensibilità comune su questo tema e che vogliamo quindi svilupparla insieme. Chiaramente si tratta di un testo di legge abbastanza che trasforma in modo radicale, diciamo trasformerebbe in modo radicale l'assetto della gestione in Emilia Romagna di questi importanti servizi, ma esistono però anche riferimenti nazionali importanti, non solo in Parlamento, perché si sta in queste settimane svolgendo una discussione su un progetto di legge, in quel caso di iniziativa del Movimento 5 Stelle, ma anche perché in altre regioni, ad esempio la Regione Lazio, il presidente guidato dalla presidente Zingaretti, è stata già approvata una legge molto simile a quella che abbiamo intenzione di proporre noi, e pensiamo quindi che ci siano le condizioni politiche a livello generale per maturare anche nella nostra regione questa discussione. Ci si chiede appunto come mai, vista la grande affluenza del referendum del 2011 e la netta risposta, non ci sia ancora stata una risposta anche dalla parte delle istituzioni a questa volontà popolare. Perché purtroppo la politica, questo è uno degli esempi chiari in cui si manifesta tutto il distacco che esiste tra la politica e la vita reale, per cui a una domanda precisa, una risposta ad una domanda precisa di migliaia di cittadini non si è purtroppo ancora data risposta, e questo aumenta chiaramente la disaffezione e il distacco verso la politica, perché se milioni di italiani vanno a votare chiedendo una cosa e non succede nulla, è chiaro che ci si interroga anche sul senso stesso del voto. Si è parlato appunto del presidente della Regione Lazio Zingaretti, a cui la vostra proposta di legge, diciamo, si ispira, si può dire, a quella della Regione Lazio. Lui è stato appunto appena eletto segretario, quindi vi aspettereste, diciamo, un appoggio da parte della maggioranza al momento della discussione? Ma noi siamo parte della maggioranza, riteniamo come Sinistra Italiana, riteniamo comunque che questa discussione all'interno di questa regione vada fatta, riteniamo che esistano le condizioni perché nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si sviluppa una discussione che ovviamente deve coinvolgere anche il Partito Democratico, al quale noi abbiamo posto, poniamo e porremo il tema, e vediamo quali risposte avremo. Siamo fiduciosi perché pensiamo che comunque sta cambiando il clima a livello nazionale, finalmente si torna a parlare in senso generale di ripubblicizzazione di asset strategici, questo è uno di quelli, e quindi pensiamo che sia opportuno dare il nostro contributo.